sedia e basta, premere uno e basta. Beh, però quella che ti avevo dato io, che ti ho fatto fare da Roberto, c'è un bel bene, quella che stavi dicendo poco fa. Io non l'avrei data a quella, te ne pittini, Massimiliano, magari non esce così bene l'altra che ti fai. Facciamo già fatta io l'altra, sempre fatta da Roberto, capito? Ce l'ho già fatta. Vabbè, allora vedi tu. Vediamo l'ho sentita che gira un bel bene quella lì. Anche se non c'è doppio modulatore, è una bomba. Beh, diciamo che questa non c'è doppio modulatore, ma è come che ce l'abbia. Mi ha aggiunto un finale con un condensatore per fare il doppio modulatore, capito? Ma io c'ho il Pluto, io non so se tu l'hai ascoltato, io c'ho anche il Pluto fatto così, come il 48, capito? E allora ne hai in eccesso, va? Ho capito perché stai vendendo. No, io da vendere c'è solo un microfono, che è una bomba, però non lo posso mettere perché non c'ho spazio, che cavolo me lo tengo a fare? Ce l'ho fermo, è nuovo, tutto rifatto bene alla grande. Positivo, positivo. Sì, come li fate vedere. Ma io adesso mi voglio risfare di questi baracchini, due li ho già dati, questo lo devo regalare. E tu cosa mi è rimasto? Poi il 48 quello vergine me lo devo tenere, gli altri due ne ho da dare ancora. Bravo, ragazzi. E cosa ti rimane a te, il brutto e quell'altro? Mi rimane il brutto e il 48 normale e una radio che mi avevano regalato che quella non la posso dare. E basta. Tutto ci faccio fuori. Cavagato. Non ti è mai venuto a mettere di farti, diciamo, un locco, no? Un armadietto, oppure farti delle pensili, delle mensurine e metterti tutti in fila. Veramente che fa in fila, la prima più allora. No, già, non mi è mai venuto in mente, non mi verrà mai in mente. Mi voglio fare capisci, una radio come Dio comanda, e due baracchini, uno normale, uno modificato, basta. Una radio HF. Positivo. 140, un 440 sono l'ideale, ma io preferisco il 140, perché il 440 c'è un difettuccio che ogni tanto esce fuori. Come esce fuori, in che senso? Nel senso che ha un difetto, me lo stava dicendo Fabrizio, che praticamente tutti i numeri del coso se ne vanno a casino, al frequenzimetro, eccetera, eccetera. Ed è dal circuito che dipende, bisogna rifare tutto il coso del circuito, va. No, non lo so questo, non te lo so dire. Su questo non lo so perché non l'ho mai avuto, capito? Quindi non lo so. Fabrizio me lo stava dicendo che lui ne ha aggiustato già uno, gli ha rifatto tutta la piastra, tutta nuova e cose, le ha rifatte e penso che campassino altri cent'anni. Però dice che tutti i 440 lo fanno, prima o poi dice che esce fuori questo difetto. Oh già, non so cosa dirti, boh. E poi adesso vediamo di avere se prendere un Kingwood o qualcos'altro. Ma se devi usare il 27 che vuol dire l'idea? E ci sono anche gli Aesu che sono belli. Ma non escono bene di radio. Adesso vediamo un pochino già, Ancora prima devo iniziare a prendermi un pochettino tutto, poi vediamo cosa prendere. Ma nuovo lo vuoi prendere? No, usato. Che nuovi costano un bel dinaio. Ci sono apparecchi che costano quanto una macchina nuova. No, ma io non ho quella disponibilità. Io in poche parole mi sto vendendo tutto questo ferramenta, tutto questo ferro vecchio, per arrivare a una cifra, prendermi una radio come si deve, basta, capito? Senza stare lì a aggiungere soldi alla tasca, con quello che vendo, con quello che ricavo compro. Sì, un 140, 300, 350 euro lo trovi, poi ti metti un MG60 e si addama. È positivo. Paga. E vabbè, sono dei belli apparecchi quelli. Puoi fare ascolto, spunta, voilà. Niente da dire. È un apparecchio completo perché puoi fare ascolto sui 7500, va sui 7500. Puoi fare ascolto sui 10, 20 metri, 30 metri, puoi fare ascolto diciamo su monte e basso. Ciao ragazzi, mi sa che c'era qualcuno che sta dicendo breco, avanti, chi è? Oh già, guarda questa modulazione, tu mi dai un parere, che metto l'MB+4, voglio vedere se c'è molta differenza. Ehi, l'ascolto però, non la guardo. Oh già, con questa cosa ti ha cambiato qualcosa? Vabbè, mi pare la mattessa. Allora, questo è l'MB+4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, MB+4, lungo. Va bene, questo qua sembra la stessa radio. Non è che cambia molto, sembra uguale. No, MB+5, se non ti hanno messo la portante, sto scendendo male. Si mi dia. Guarda, magari già. Questo è più bello. Questo qua, dici? Questa c'è una modulazione più, con più bassi, è bella corposa. Però lasciamo questo. Ma che l'altra non è male. Comunque non ho capito se era portante oppure se tu sei uscito basso di radio. È come se la passassi ma sotto. No, sono uscito io basso di radio. C'avevo un PLM da mollato dietro. Ah, ecco. Paga. Ma vabbè, perché c'è la moda adesso. Ogni tanto ne vuole niente. E guardate, mi arriva il botartista. C'è ogni giorno adesso. Ma magari, vabbè. Ma cazzuraga, dov'è? E si gioca al guruburu. Sentivo. Chi è? Avanti, preco. Chi è? Avanti. Io ti ascolto a livello QRM, ma sei incomprensibile. Santiago di uno, però la radio è zero, è quasi incomprensibile, non riesco a capire quello che dici. Tu lo ascolti già? Aspetta che provo con la capire l'antenna, ma non penso. Prova a vedere, avanti. Avanti l'amico, lo breco. Ho capito, breco. Oh, già, tu lo senti, io lo sento proprio a livello qua. Sì, sento un bisbiglio, ma... ho provato a attaccare anche l'amplificatore dell'antenna, ma non riesco a ascoltarlo bene. E così ti guarda. Da dove urli l'amico? Fammi capire da dove urli. La volta là? Per questo passaggio sono riuscito a copiarti, eh. Ok, buonasera, ben ascoltato. Tu mi ascolti bene? Oh già, è un ragazzo da Bolotta, là. Non so se tu l'ascolti. Non lo vedi che sta parlando? Amico di Bolotta, se mi ascolti, cambio. Vediamo un po' se mi ascolti, cambio. Nintendo, sì, da Nintendo. E come vado un po' su Zanuffia e ti intendo. Leo non sono di Buttiduro, ma di Tatta. Di Tatta rima privato di Buttiduro. Giampaolo, eh? E basta invece Giampaolo Silvestro. Grazie. una balottana, ma in Mario Attrano la balottana, boh, Santiago, quasi uno, neanche uno, la radio proprio incomprensibile. Ok, dai, ben entrato, buonasera e ben ascoltato, avanti tu. Thank you. avanti Gianluca, buonasera anche a lei, è un pugno a capo. Buonasera Gianluca. Prova ecco Gianpa. Gianpa, me lo ascolti? Sembrava la voce di Gianluca. Intorno ai 100-150 watt, una cosa vuol dire, e ne vuole una calzata, già fa. gli fa bene. 50 euro, ma che per gli imbecilli mi paghi 60. Yeah. punti positivi a radio super bomba. Va bene, va bene, ok, vediamo un po'. Mariano da Mottola. Mariano da Mottola, mi ascolti, cambio. Niente, vai, gli oggi riprendi. Ascolta, d'accordo. Mariano lì in Molotta. Molotta, vicino al nuvolo. No, ci arrivo io lì. saluto. Che si abbina bene a quei buonasera anche a te Massimiliano. Antonio Bombo da questa parte. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito, ben entrato. Claudio, a te dico. Ciao Otto, buonasera, ben sentito. Come la radio di te, Massimiliano, è troppo forte, sempre uguale con questo, con la telefona, non sto usando il baracchino. È un pochettino forte, si sente proprio la potenza. Sì, vabbè, ma è sempre uguale, è chiaro che sì. Questo è diverso dalla radio, non è ancora il baracchino, questo è il keyboard, quindi. Ma non è stata la modulazione, forte cosa vuol dire? Forte come sempre, è sempre stata alta la modulazione di queste radio. Ma se devo essere sincero è un pochettino così, non è bella come quando usi l'altro apparato, come si chiama? Guarda, adesso si è migliorato qualcosa? Mi sembrerebbe di sì. Anche da te, ma ci vediamo. Solo per mia curiosità, prova a passare un attimo il micro, ma ho un pelo. Così l'ho messo a 3, guarda a vedere. Allora, te ne voglio la verità, da questa parte così, con una modulazione più rilassante, forte, è più bella per me. questi ultimi passaggi l'ho sentito meglio, cazzo. Ah, la mia sensazione sarà molto molto meglio. Con la Acel Bip, qua non ce n'è Bip. Ma è quello che hai preso da cosa? Dalla buon'anima? No, quello è il console primo. Quello è il console primo dell'SBE. Questo è Zodiac, questo è il mio. Questo mi ha dato più un certo il moro. No, senta, abbastanza bene. Funziona bene, caspita. Se non funziona siamo per male un domo. No, infatti ho lasciato solo quelli base qua, capito? Giusto per fare due chiacchiere in città con pochi watt e basta. Capo, hai fatto bene, tanto cosa vuoi bombare in città? Niente, tanto così a farlo scaldare, ma davano bene le radio così. Dovevo un po', 4 watt già vanno bene, ce ne fotte niente, vanno più che bene alla grande, ottimo per la truppa. Massimiliano è rientrato, sì. Boh, mi sembra che te stava andando in bagno, non so. E chi lo sa, ma pare che sta arrivando il segnale. Sì, c'è più di 9 col baracchino, vai bene, non c'è problema. Un pochettino più alterata, diciamo. Non già va bene, ottimo per la truppa, va benissimo alla grande. L'ho ripreso, mio signore. E anch'io ho ripreso, sono col baracchino, col tane più 3. Quando è fermo che non schiaccia la portante rimane blu, quando schiaccia la portante adesso con motore attacco saletta, ma guarda la differenza che c'è tra il TAM e più 3, col Zodiac e la 48 con saletta qua. Cavaglia, guarda, tanto il pio ormai che segnale l'ho visto. Sento bene. Tu c'è quello che hanno aggiustato? Positivo, voglio dire. La radio, quella radio. Va, tutto a posto. Segnale, va bene? Sì, va benissimo. Segnale 920, radio 5. Avanti Claudio, va bene allora. Mi è sembrato stato il conduttore, sta? Ok, riprendi. Adesso anch'io, lo sento. Cazzo. Domini Turbo. Domini Turbo. Ehi, Domini Turbo è uguale a... alla 2001 Turbo, però questo è Mini Turbo, capito, dalla LEM, è alto 1,10 m, capito, allo stesso attacco dalla, dalla 2001. Precisa identica, però più piccola, 1,10 m, quella è 2 metri, questa è 1,10 m. Sto Massimiliano. Come sento? Lo sento anche qua, lo sento. Santiago 3 arriva. Adesso quando si mette in movimento poi migliorerà ancora. Però lo sento molto molto molto molto bene. Positivo. Avanti, Sandro. Sì, casa Massimiliano. Datemi un attimino di tempo che dobbiamo ultimare una cosa, poi ci, ci sentiamo tra 5-10 minuti quando avete movimento, così lo proviamo, dai. Va bene, comunque questo passaggio si è fisso di Santiago 9. Ora io 5, avanti qua. Ehi, è positivo, dai. Ma qual è quel chilometro? Quello che non entra la busta? È per vettura, per vettura. Se te l'ho chiesto io, mi pare, per metterla nella smalti più corta, ma tu non ne avevi, non l'avevi già fatta. Però l'avevo già fatta prima di andare quella là. Ma io sto cercando una con lo stesso attacco della base magnetica che c'ho io. Però che sia più corta, io ce l'ho più di 800, capite? Mi serve un'antenna che ci abbia lo stesso attacco, che però sia più corta da mettere nella, nella smart, perché quella lì è troppo alta, capito? Ma, questa c'ha lo stesso attacco della 2001, della PLC 800 non va bene, hai capito? Ha lo stesso attacco della PLC, che domani della PLC, della 2001 Turbo, hanno lo stesso attacco. C'è la carica piccola e poi grossa, più grossa della 2001, però c'ha un rinvio verso di guadagno, capito? Guarda che va bene, che stai dicendo? Sono uguali, sono Massimiliano. Ti riprendi tu? Vedi che c'è il Fulvio lì dentro, ho scritto a tu. C'è il Fulvio lì, era nuovo, nuovo, dentro la busta lì. Hai compreso tutta, mica andate a me alla base che c'ha Claudio. Sono uguali, sono 2001, PLC 800 e quella Mini Turbo, sono tutti uguali gli attacchi. Non hai compreso, no? No, non si vede proprio nulla tu. Perché la PLC 800 quella lì non gliela caccia perché non va bene. Guarda, stai sbagliando, Massimiliano. Fidati. No, ti stai sbagliando tu, quella Mini Turbo, la cosetta della PLC 800, non va bene. Cazzo, la 2001 ci va nella, nella cosa, nella, cioè la 2001 ci va nella cosetta della PLC, va della, della Mini Turbo, ci va. Tanto forse non hai capito, allora. La PLC 800, la 1000 e la 600 c'era anche, quelle tre, le basette ce l'hanno uguali. La basetta che c'ha la 2001 Turbo e la Mini Turbo vanno bene. Se tu prendi senza la basetta me la metti nella PLC 800 non va bene, prima di tutto non ti entra la farina per stringere, prima di tutto perché quella della, della 2001 è più grosso, la, la letretta, come te la chiama, non ci attacca, hai capito? A me non mi risulta assolutamente che, questa cosa, io, cioè... Ehi, vabbè, non fa niente, non si muglia. Risulta questa cosa, allora tu prendi una basetta della PLC 1000 o dell'800 e mi fai vedere come ci metti la 2001 Turbo attaccata alla basetta. Uguali, cazzo, sono uguali. No, ma sognaggiamo che ti stai confondendo. Quanto mica ce l'ho avuta, mi scala 1000, la PLC 1000, e ce ne ho avuto più di una di 2000 euro turbo. E la basetta della 1000, nella 2001 non va bene, poi se tu ce l'hai avuta che l'hai provata, non lo so. Non ce l'ho avuta pure io le basette. Fai entrare a coso, cioè, secondo me ti sei sbagliato, secondo me, ti sei confondendo, secondo me va bene, perché una persona la usava come seconda antenna, ci attaccava la PLC 1000, ci attaccava, dove c'è attaccata la 2001, ci attaccava la PLC 1000, ci attaccava, e andava benissimo. Allora, se mi stai sbagliando, tu, io quando ce l'ho io non andava bene. Avanti Sandro! Gatta Massimiliano! Ok, sono quasi all'uscita di Polo Torre, cioè sto vicino alla Grenzi. Segnale 95, radio 5, perfetto. Con 4 watt? Guarda, ho messo su il 48, c'ho sotto il 48, liscio liscio come l'olio. Questo passaggio da parte mia 9 più 10, avanti qua. Ehi, no, già va bene Sandro, non c'è problema, dai. Non so se mi stai ascoltando, sono col baracchino, ma già sta andando bene. Mi sembra che sia più di 9 il segnale, non so se è affidabile, non lo so, però già va bene. Capo, che ti ascolto, Claudio. Vi ascolto. Ti ascolto anche io, ti ascolto. Anzi, sei Santiago 8, Radio 5, mi senti? Gappa, Anto, già ti sento, anche a te piccolino, ma riesco a tirarti fuori. Io noto però un pochino di, come si chiama, di saturazione, non so se la notate voi. Un po' di saturazione sento Alessandro, un po' saturi. Prova Sam. Ok, vedi un po'. Allora c'è da considerare che mi si sta accendendo leggermente il led AV sul 48, sarebbe, dovrei avere stazionario. Positivo, vabbè, perché quando tu hai messo l'antenna le stazionarie non te le hai fatte? Certo che le ho fatte, però Massimiliano, ho utilizzato il cavo che avevo già senza sfilarlo e senza niente, capito? Non vorrei che ci fosse qualcosa lì. Smogliatissimo fare queste cose. Lo so che non ho finito di palle togliermi il cavo, però ogni antenna c'ha il suo cavo a misura, quindi una cosa fatta bene, ti organizzi, metti tu il cavo che c'è e ci metti quello dell'antenna, perché è tarato per quell'antenna. E sicuramente questa saturazione è perché hai stazionarie. Ok, è probabile pure, perché questo è il cavo che ho sotto, che ho utilizzato, era della Magnum, l'antenna, quella quarta d'onda. Positivo, va bene, comunque statua, però come segnale ci stai, non so dove sei arrivato, ma qui questo passaggio c'è stato 9.20. Ah, pure qua sta cominciando ad arrivare forte, questa è la Sassari. Cappa di positivo, dai, sto salendo lì all'ingresso di Sassari, sono adesso a Lilioni. C'è 9.25, la tecla. Prova Sandro. Ok, prova radio, prova un po'. Cazzo, ma sei sicuro, ingegnerisci o voglio dire in giro? 9.15 scegli qua. Manco Gianni arrivi uscicando quando è in macchina. Sei 9.15. Cosa vuoi che ti dica? Funziona, tranquilli. Allora, io dico una cosa, quando Gianni è lì all'ingresso di Porto Torres, mi arriva Santiago di 9 con l'antenna grande e Santiago di 7 con l'antenna piccola. Oh, non lo so, io te l'ho detto, l'ho messa su, però non ho tolto il cavo, Massimiliano. Il cavo in dotazione che mi ha dato insieme all'antenna, non l'ho messo, ho utilizzato quel cavo che c'avevo già sotto della Magnum, per evitare, diciamo, di sferrare e togliere un po' il pezzo della sottocapota della macchina. Adesso sono nel fosso prima della rotatoria ottava platamona. Vabbè, qua c'è 9:30 fisso. Ah, qua c'è furbissimo il pezzo, 9:15 e radio 5. E qua quanto ti arriva? Sono te lo sto dicendo, io a Gianni lo ascolto quando, da quando parte, vabbè lì fa la budi non fa 131, da quando parte fino a quando arriva, dopo che lascia la 131 si piazza sul 9:10 sino a dentro il 8:00 e poi lì ai Grime arriva 9, mentre lui invece è partito da 9 e sotto casa sua, ma si è piazzato a 9:20 e non si può capire. Io non sono vicino a te, non so quali punti io sono in alto, ma sono cazzo dall'altra parte della città. Appunto per quello, quindi ci affugge con l'antenna. Beh, io penso proprio di sì, l'ho già detto. Che cazzo, già non ho detto poco di cazzate quando... Ma per carità, lasciamo perdere qua. Invece funziona molto, molto, molto bene. Tanto funziona benissimo, perché lui è partito da 9 sotto casa sua, adesso fisso 9:10, 9:20, adesso gli ultimi passaggi, vabbè, sarà vicino a casa, 9:30 e là non si sposta da lì. Con 4 watt cosa pretendi? Sandro, ma dalla Budi stai salendo? No, negativo, Anto, negativo, sono qua adesso dopo ottava, dopo ottava al semaforo. Sono adesso qua fermo che è rosso. Ah vabbè dai, se no sei passato qua in zona. Siamo preso il caffè, dai. Tanto, ehi dai, già ci sarà un altro momento. No, no. Sto salendo lì fino a Monteoro, lì che devo. Sto accompagnando mia figlia lì, dai. Ragazza, nessun problema. Adesso sei arrivato. Sei arrivato 9:20 qua, sei molto forte, sei. Ma perché quella frusta non ti piace, là, non ti va bene a metterla là? Sì, che gli va bene, no, non c'è problema, devo attaccare quella là, aprire la base magnetica e prepararla, in questi giorni non ne avevo voglia, ma ce la faccio, non c'è problema, quella lì è molto bella per quella macchina, è la sua che ha visto stesso colore e tutto. Dopo rimango così perché queste antenne piccoline, a differenza che qualcuno non mi dava ragione quando sono stato io da montore nella Citroen a montare quell'antenna tipo quella che mi hai dato tu, quella nera tipo frusta, sono quella che c'ha più un certo per capirci. Da Perfogas arrivavo a Sassari tranquillamente con un piccolo aiutino, tutti rimanevano così, ma non rende, non qui, non là. Poi noi in cambio ci siamo trovati tutti in Piazza dei Segni, tutti con le PDC 800, le PDC 1000, le trovati tutti a fiancare, giù con una giussa, ci sono ancora perché ne dobbiamo portare raggio. Non capisco io perché si dicano coglionate. No, perché le antenne bisogna saperle usare. Bisogna saperle usare il radio e le antenne, perché hanno sempre quelle manie, là. Ecco, te l'ho detto proprio semplicemente, te l'ho detto. Hanno sempre quelle manie di presunzione, quando le sapevo, la grande, la mezza e la mezzana. Fate far andare tutte. Dimmi, San Giovanni adesso. Sì, lo devo dire, prima di chiudere un gatto dormito. E cosa vuoi dire? Vuol dire va bene quanto trenino, dice che. Cazzo, c'è chi dice che non va bene. Ma tu da portatore sotto casa tua, come ci ascoltate? Bene o male? Bellissimo, ma forte però, sei oltre 9:25, sta giù di tutto. Allora, se non ricordo male, a Claudio lo si sentivo intorno al segnale di 5-6, 5-6-7, a te Massimiliano intorno ai 5-6 stesso, da sotto casa. Quindi fate il conto, tu a me mi arriva di 9, a Claudio 8, da sotto casa tua, fatelo un conto. Ma ci siamo con i baracchini però, eh. Io sto andando con col baracchino con la 48 anch'io, quindi diciamo che in proporzione c'è anche un'ottima ricezione, non solo della trasmissione. Bisognerebbe fare le prove con Gianni, che è l'unico che ha un impianto decente in macchina. Bisognerebbe fare le prove con lui, tutti e due a portatore, se fermi, e vedere come risultano le antenne. Perché è veramente entusiasmante questa cosa. Entriamo, bisogna fare le prove con un baracchino omologato con 4 watt che stanno allossando. Ma considera che io ho 4 stazionari, sono stazionari perché il led su 48 si accende e si spegne, quindi senz'altro stazionario. Io non ho detto, quelle led sono una cosa che io non ci ho mai fatto affidamento. Perché una volta anche a me mi si accendeva, lampeggiava, l'ho attaccato all'osmet, ma c'era uno e due di stazionari, anzi neanche, o forse di più, uno e due, era abbastanza fattibile, capito? Sull'uno e due, uno e tre puoi trasmettere tranquillamente senza nessun problema. Il brutto è quando superi l'1 e 5, allora sì, ma bisogna attaccare l'osmet per vedere effettivamente perché si sta accendendo, se l'impulso che le dà la modulazione, se l'impulso che supera magari quella soglia delle stazionarie, perché quella indirizzo è una soglia delle stazionarie, non è che si accende perché c'è stazionaria a 1000, si accende quando magari superi l'1 e 2, l'1 e 3, però diciamo che non danneggi la radio, capito? Evidentemente c'è una taratura così, giusto per avvisarti che l'antenna non sta lavorando a 1-1, ma sia abbastanza comprensibile qua, quindi nessun problema. Ok, dai, va bene. Comunque Massimiliano, il cavo che mi hai dato insieme all'antenna è sempre 4 metri come questo che c'ho sotto adesso? È sempre 4 metri, col quarto d'onda avevo 1 e 2 di stazionarie, quindi non le ho controllate. Adesso che ho messo questa antenna non le ho controllate le stazionarie. Allora sai, io ti dico una cosa, se tu quell'antenna la metti bene a 1 e 1, tu non esci più così, quella radio esce perfettamente bene e l'antenna va benissimo, non bene, benissimo. Sono qua adesso a Predanieta, presso Cassa Edile Predanieta. A 9.30 Radio 5, a Fondo Scala proprio. Di Claudio. Qua già da quando è uscito da Porto Torres, è sempre maletta, non si è mosso per niente, non lo so. Claudio, passa sullo T50 a vedere un po'. Diga, non so come mi occupi il tuo anelli, adesso mi occupi bello forte, no? Tanto, sì, adesso ti ascolto bene, chiaro. Sì, ma da poco che ci vuoi. No, guardi, sento un bel forte, qua sei arrivato a Fondo Scala, altro che non rende, a Puglia che rende. Passando. Ok, dai, vedi un attimino, sto presidendo il vincolo dopo, come si chiama? Conforama lì, lo svincolo per Monteoro. Vedete, non è più 36 sul digitale, questo. bisogna saperle fare andare con le antennine. Ho ragione io. Claro, bisogna provare con la Flux e vedere quanto rende quella. Beh, quella già rende, non c'è problema. Aspetta che abbasso il watt qua. Quella già rende, Massimiliano. Va bene perché la conosco come antenna, capito? Poi adesso come l'ho modificata, l'abbiamo fatta bella e pulita, dovrebbe andare bene. Devo cambiare la base magnetica e basta. Un attimo, ok. Oh, Massimiliano, dimmela. Allora, considera che Gianni c'ha l'antenna sulla macchina a centro petto. Io nell'appunto ce l'ho proprio al posto dell'antenna radio nell'appunto. Infatti lui, cioè come lui, la sua radia anche di più, hai capito? Proprio perché ha centro petto. Ma quell'antenna va veramente bene. Va bene veramente. Faccio un salto in campagna, faccio il salto in campagna, intanto devo prendere roba, 10 minuti la controllo un attimino, magari ci sentiamo anche da lì, vediamo un attimino, dai. Infatti quando sei in campagna ti fermi, lo devo smettere, così ti do anche un controllo, te lo abbassi leggermente, capito? Lo abbassi un pochino e vedi un po' come va. Eia, va bene, vediamo un po' se questa LED si continua a accendersi o meno, che poi lì in campagna è ancora più coperto, ci sono alberi. Adesso sono di fronte a Città Mercato. Bene, stai arrivando qua, non c'è problema, Massimiliano. Va, Sandro. Stai arrivando alla grande, va più che bene, tranquillo e sereno. Ah, qua c'è sempre a fondo scala, qua c'è fortissimo. Ti sono fatti tutti i complimenti, Missa. Asciugati le lacrime. Complimenti, è la realtà, è la verità, no? Cioè, quando c'è la verità, è la verità. Ma i complimenti sono all'antenna, logicamente, perché sta dando le sue prestazioni, diciamo, all'antenna, l'apparato lo conosciamo, 48 bigs con 5 watt, quindi i complimenti vanno tutti all'antenna, io non ho fatto niente di particolare. I complimenti possono essere a Massimiliano che me l'ha consigliata, che l'ho presa, tutto lì. È positivo. Possono essere anche a me perché l'ho portata, se no non ce l'avete avuta. Se tu avessi scoperto queste prestazioni, che mi sembra che ho sentito Gianni che già l'ha provata e non usciva così, io adesso cosa vuoi che ti dica? Eppure io non ho un grande impianto, l'impianto è buttato così all'avventura. Ma io devo essere sincero, quando Gianni l'ha piazzata io non l'ho sentito, lui ha detto che non andava bene se l'ha venduta, e ha fatto bene, se non le piaceva ha fatto bene, dice le prestazioni non le dava. Io ho visto che la tua da portatore fino adesso, oltre i 9, sei sempre oltre i 9, quindi non c'è problema, vuol dire che l'antenna sta andando bene. Ok, Antonio, riprendi. Ho mezzo intenzionato sono di prendermela io anche. E montarla io come si arrende. Eia, vabbè, bisogna vedere. Comunque, quindi Massimiliano, io adesso ho un dubbio, perché dove la devo trasferire, sul mezzo che la dovrò trasferire, il tetto non è piatto davanti al posto dell'antenna radio, è a scivolo. E cosa succede se a scivolo? Apri la letta e inclini l'antenna, sai voi. Non lo so, magari se funge come sta fungendo adesso. Ti spiego, la devo trasferire su un furgone. Hai presente quei furgoni della Nissan, quelli piccoli, cabinati? Ho capito, ma non succede niente. Allora, se tu la metti anche, per esempio, nel parafango, apri tutta la letta e lei la piatti dritta, la basetta rimane in orizzontale, non succede niente, è fatta apposta, capito? No, ma non ti volevo dire su quel fattore lì. Io sul fattore come stai radiando adesso e poi metterla in quel modo là, non lo so. Beh, giustamente il modo che radia è diverso, però una volta che fai... Oppure fai una cosa, quella te la lasci lì e la grande te la metti nel camion. E vabbè, adesso vediamo, vai. Adesso vediamo un po'. Allora, se ma passaggio a livello San Giorgio, cazzo, San Radoburo. Sasotto. Passasotto, sì, Passasotto. Oh, ioia. Va bene. Allora, ti sparviero Claudio. Sì, noi che lo segnale gli ha già fatto assai, no? Io va bene, altro, ci abbiamo un metro tra me e te, quindi va bene. Sparvie. Allora Massimiliano, io ti sto ricevendo facendo riferimento allo Sminter da 48, qua mi sta arrivando Santiago 9, quindi anche come ricezione non è male. Allora, qui sei 9.30, 9 più 30, cioè l'ago mio è tra il 3 e lo 0, in mezzo, 9 più 30. Io ho capito, ma diciamo, come ricezione è buona, diciamo, e mi sento bene io, diciamo. Ma appunto, per me va bene, poi dipende anche l'utilizzo, che ne fai, hai capito, le prestazioni che ti servono, cioè non un'antenna così non è che puoi pretendere neanche chissà che cosa. Io ho un'antenna da 40 cm, già, in macchina già l'hai visto, quello schizzetto che ho, per esempio ieri propagatore Santiago 9, da casa in tutta la città mi ascoltano, quindi parlo anche con Piero Monti, quindi figurati, va bene. Papà, a me quando mi senti io, ma io che sono il più piccolo. Sì, non ti credere che sei tanto piccolo, no. Tanto tu sei Santiago 8 qua. Un punto meno di cosa? Che aspetta, guarda, sta ricevendo e andando benissimo. È positivo, positivo. Vediamo un po' se è entrato Claudio, sta vero? Sì, sì, sono qua, scusate che mi ha chiamato mia moglie. Mi sono allontanato un secondo. Ho capito, ho capito. No, se devi andare vai, no, non ti metti a problemi, però ci mancherebbe altro, se devi fare cosa, lo capisci. Certo, se mi dici, mandami. Non ti preoccupare, c'è tutto sotto controllo, qua già sono qua, non c'è problema. No, ho detto, se devi fare cosa, tipo dovevi fare. Sì, tipo un'entrata in uscita. Vai, vai. Lui. No, sono qua, non c'è problema. Massimiliano. Ehi, arriva. È arrivato a questo punto, allora non c'è bisogno neanche di mettere qualche aiutino. Ma smette lui, smette l'antenna. Ecco, lo metti un aiutino anche piccolino, una cinquantina, un centinaio. Già ti aiuta, lo vedono, ti aiutano. Vabbè, adesso vediamo, dai. Adesso vediamo un attimino, va bene. Comunque, caro Claudio, mi stanno creando problemi per avere il permesso a Porto Torres di ripetere quello che avevo fatto l'anno scorso. Allora, bisogna andare da Beniamino. Come mai i problemi? Ma perché non ci sono sponsor, ci sono problemi burocratici, amministrativi, qual è il problema? No, il problema di chi dovrebbe rilasciare diciamo, il permesso è dovuto perché dandomi il permesso sarebbe una mia precedenza, capito? Vabbè, però non è che si può lasciare la gente così, bisogna sapere il perché e il per come. Qual è il problema principale? So che per certo che quest'anno ci sono un sacco di problemi per le manifestazioni, è una festa grande, eh? Comune, non è che ha assessorato sia allo sport che alla pubblica istruzione, a tutto, hanno pochi denari in cassa, molto poco, e quindi credo che quest'anno sia una festa grande, un po' ristretta. Questo lo so perché ho già parlato la settimana scorsa proprio con Beniamino per altre cose mie personali, e quindi mi ha detto queste cose qua. Ehi capo, lo so che stanno creando, non lo so adesso se stanno creando, che cosa è successo, anche per le varie bancarelle, per la forza grande ci sono un po' di problemi, ma non riesco a capire quali problemi ci possano essere, va bene, non siamo in mezzo, diciamo, al discorso, ma il mio discorso, diciamo, è un discorso di tutto di beneficenza, non è un discorso di lucro, capito? Guarda, io domani, domani c'è proprio lui, perché sono a Stintino, domani c'è il battesimo di della figlia di mia nipote, la figlia di Antonello, e c'è anche lui, capito? C'è anche lui, quindi domani ne parlo, poi ti faccio sapere, perché capire qual è almeno il problema, capire qual è la cosa principale, perché a quanto mi aveva detto, ha detto appunto che sarà molto ristretta perché l'assessorato allo sport non come tutti gli altri, il torneo di pugilato, la solita partita, squadre, alla, eccetera eccetera, insomma le manifestazioni che si facevano prima non ci saranno perché non ci sono soldi e sarà anche a rischio sicuramente al 90% la sagra del pesce, quindi non lo so, adesso domani c'è lui, siamo a Stintino proprio in una delle sue proprietà, gliene parlo, poi ti faccio sapere, perché credo che sia solo questione amministrativa, questione di denaro, non credo che sia altro, questione di denaro nel senso anche se non è a scopo di lucro, però ci sarà da, da fare determinate cose dove il comune sicuramente dovrà cacciare fuori dei quattrini, e quindi il problema può essere inizialmente questo, altro non è. Oh Claudio, Claudio, no, no, no, scusa se ti correggo, il comune non deve sborsare neanche un centesimo, capito? Deve solo concedere il permesso per il suolo e basta. Per il suolo pubblico della libera arenarita stai dicendo tu? Esatto, esatto, della arenarita, dove l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi ci deve dare l'autorizzazione, il permesso per poter svolgere, diciamo, il discorso, quindi non deve sborsare soldi, non deve sborsare neanche un centesimo. Allora, se per il permesso lì della arenarita, ti dico che qual è il problema, c'è il gazebo di cassa integrati quest'anno. Ma attualmente io non ho visto niente. E vabbè, ma lo piazzano sicuramente il giorno della festa grande, o prima della festa grande, non lo so. Me l'ha accennato una cosa del genere, ma mi ha detto che ancora non era sicura e quindi sicuramente ha tentato il forse per quello. C'è un sacco di casino quest'anno, vedrai tu il casino che succede alla festa grande. C'era una manifestazione di cassa integrati, associati con quelli di Fiume Santo, con quelli dell'Eriche, con quelli socialmente utili, con quelli, guarda, ci sarà un casino di Gesù Cristo, perché è l'unico giorno dove veramente possono fare bordello forte, sicuramente. Ok, dai, va bene, io sono arrivato in campagna, dai, qua in mezzo agli alberi, qua tu già lo sai dove è, tutto quanto, come mi ascolti? Guarda, io rimango, non lo so, sembri a Sassari, sino per 20, Sandro, sto trasmettendo quello dei 50, quindi più serio di così il segnale non può essere. Massimiliano, come lo senti da Sandro? Non è più bella, ma che giuro. Vabbè, e cosa volete che vi dica? Non lo so, dai, datemi un po' di tempo, adesso mi devo svolgere un po' di roba. Attacco lo smetrino e vediamo un po' cosa c'è, dai. Dopo ci sentiamo più tardi. Positivo? Ok, Sandra, sicuramente questa radio è un po' satura così, tra le qualche lineetta di stazionario, no? Secondo me quando metto gli stazionari quella radio va benissimo. Ok, vai Claudio, ripeto. Ciao, buonasera, buona continuazione, dai, buona serata. Dai, siamo qua, Sandro. Fai le prove, no, non c'è problema. Ok, ok, va bene. Oggi arriva. Un casino e buh. Chissà se si riesce a fare una bella festa come quando eravamo ragazzi, ma io ho anni che non vedo niente a Polottolese veramente, molto molto spento. Solite bancarelle, solito trick e track, sembra il mercatino del lunedì che fanno qua a Sassari e basta. tutto pieno dei cinesi, tutto pieno dei marocchini, tutto pieno di ambulanti degli anni 60 e basta, no, non vedo altro. Qua a Sassari io, allora da quando sono a Sassari dal 1985 ho visto due volte la cavalcata sarda, proprio due volte, l'ho vista perché non ne potevo fare meno, perché ero qua in circoscrizione, quindi mezzo impoliticato, e quindi sono dovuto andare per forza perché c'era tutta la giunta, tutte le circoscrizioni, quindi siamo dovuti andare. Ma finito il mio mandato, così chiamato, la circoscrizione qua di Carbonazzi, non vedo più andato, quindi non so se hanno migliorato, se hanno peggiorato, non so nulla, sono cose che poco mi interessano. E la festa grande scelgo il giorno della processione e basta, poi per me con i valigi e le barre biazzi. Le bancarelle stanno molto molto meglio, no, in piazza la fanno, che non c'è posto manco di cagare.